Ora, poter cercare nel salotto, negli amici di Madame de Garmant, il mistero del suo nome, mi era tanto più necessario in quanto non lo trovavo nella sua persona quando la vedevo uscire a piedi la mattina e il pomeriggio in carrozza. Già nella chiesa di Combray, veramente, ella mi era apparsa nel lampo di una metamorfosi, con le sue guance irriducibili, impenetrabili al colore del nome Germant e dei pomeriggi in riva alla Vivonne, un luogo del mio sogno fulminato, come un cigno, un salice, nel quale siano stati tramutati un dio o una ninfa, e che ormai, sottomesso alle leggi della natura, scivolerà nell'acqua o verrà agitato dal vento. E tuttavia, quei riflessi svaniti, era bastato che io mi allontanassi da lei perché subito si riformassero, come dopo il tramonto, i riflessi rosa e verdi del sole dietro il remo che li ha spezzati. E nella solitudine del mio pensiero, il nome si era ben presto appropriato del ricordo del viso. Adesso però la vedevo spesso, alla finestra, nel cortile, per strada, ed io almeno, se non riuscivo ad integrare in lei il nome Germant, a pensare che si trattava proprio di Madame de Germant, ne incolpavo l'impotenza del mio intelletto a compiere sino in fondo l'atto che gli richiedevo. Mentre lei, la nostra vicina, sembrava commettere lo stesso errore. Peggio ancora, commetterlo senza turbarsi, senza nessuno dei miei scrupoli, senza nemmeno il sospetto che fosse appunto un errore. Così, Madame de Garmant mostrava, nel vestire, di voler uniformarsi alla moda, esattamente come se, credendosi trasformata in una donna simile alle altre, aspirasse a un'eleganza d'abbigliamento nella quale una donna qualsiasi poteva eguagliarla, forse superarla. L'avevo sorpresa a guardare con ammirazione, per la strada, un'attrice ben vestita, e la mattina, poco prima della sua sortita a piedi, quasi che l'opinione dei passanti, di cui metteva in risalto la volgarità, portando familiarmente a passeggio in mezzo a loro la sua vita inaccessibile, potesse mai essere un tribunale legittimato a giudicarla, potevo scorgerla mentre, davanti allo specchio, con una convinzione priva di sdoppiamento e di ironia, con passione, con malumore, con amor proprio, simile a una regina che abbia accettato di impersonare una servetta in una commedia di corte, recitava la parte, così angusta per lei, di donna elegante. E nel mitologico oblio della sua grandezza nativa, controllava che la sua veletta fosse ben tesa, spianava le pieghe delle maniche, s'aggiustava il mantello, così come il cigno divino esegue tutti i movimenti della sua specie animale, mantiene del tutto vuoti di sguardo gli occhi dipinti sui due lati del becco e si avventa d'improvviso su un bottone o un ombrello, da cigno, dimenticando d'essere un dio. Ma come il viaggiatore, che deluso dal primo aspetto di una città, si ripromette di penetrarne l'incanto visitando i musei, facendo conoscenza con la gente, lavorando nelle biblioteche, così io mi dicevo che, se Madame de Germant m'avesse ricevuto in casa sua, se fossi diventato suo amico, se fossi penetrato nella sua esistenza, avrei conosciuto ciò che sotto quello scintillante involucro arancione il suo nome racchiudeva realmente, obiettivamente per gli altri, dal momento che, in definitiva, l'amico di mio padre aveva pur detto che il giro de Germant era qualcosa di a sé stante nel Faubourg Saint-Germain. La vita che supponevo vi si conducesse scaturiva da una così diversa fonte d'esperienza e mi sembrava dover essere così speciale che mai avrei potuto immaginare la presenza alle serate della duchessa di persone da me frequentate in altre occasioni, di persone reali. Infatti, nell'impossibilità di mutare subitamente natura, vi avrebbero fatto discorsi analoghi a quelli che già conoscevo. I loro interlocutori si sarebbero forse abbassati a rispondergli nello stesso linguaggio umano, e una serata nel primo salotto del Faubourg Saint-Germain avrebbe registrato momenti identici ad altri che avevo già vissuti, il che era impossibile. È vero che la mia mente era alle prese con qualche difficoltà, e la presenza del corpo di Cristo nell'ostia non mi sembrava mistero più oscuro di quel primo salotto del Faubourg situato sulla Rive Droite e di cui dalla mia camera potevo ogni mattino sentir battere i divani. Ma la linea di demarcazione che mi separava dal Faubourg Saint-Germain mi sembrava, per il fatto stesso d'essere puramente ideale, ancor più reale. Sentivo come fosse già Faubourg lo zerbino dei Guermantes, steso dall'altra parte di quell'equatore, di cui mia madre, scorgendolo come me un giorno che la loro porta era socchiusa, aveva osato dire che era parecchio mal ridotto. D'altronde, come avrebbero potuto quella loro sala da pranzo, quella loro buia galleria dai mobili di peluche rossa, che potevo intravedere a volte dalla finestra della nostra cucina, non apparirmi intrise del fascino misterioso del Faubourg Saint-Germain, sua parte essenziale, geograficamente integrata nei suoi confini, se esservi ricevuto significava entrare nel Faubourg Saint-Germain, respirarne l'atmosfera, se tutti coloro che, prima di passare a tavola, sedevano accanto a Madame de Guermantes sul canapè di cuoio della galleria, appartenevano al Faubourg Saint-Germain. D'accordo, anche al di fuori del Faubourg, a certe serate capitava a volte di vedere, maestosamente troneggiante tra la folla volgare delle persone eleganti, uno di quegli uomini quali, non essendo che nomi, assumono di volta in volta, quando cerchiamo di raffigurarceli, l'aspetto d'un torneo o d'una foresta demaniale. Ma qui, nel primo salotto del Faubourg Saint-Germain, nella buia galleria, c'erano solo loro, nessun altro. Scolpiti in una materia preziosa, erano le colonne che sostenevano il tempio. Persino nelle riunioni di famiglia, era soltanto in mezzo a loro che Madame de Guermantes poteva scegliere i commensali. E nei pranzi di 12 persone, raccolti attorno alla tavola apparecchiata, erano come le statue d'oro degli apostoli della Sainte-Chapelle, pilastri simbolici e consacranti dinanzi alla sacramenza. Quanto al pezzetto di giardino che si stendeva, cinto da alte mura, sul retro del palazzo, e dove Madame de Guermantes, nel dopo pranzo d'estate, faceva servire i liquori e l'aranciata, come non pensare che sedersi lì, fra le 9 e le 11 di sera, su sedie di ferro dal potere paragonabile a quello del canapè di cuoio, senza respirare all'istante la specialissima brezza del Faubourg Saint-Germain, era altrettanto impossibile quanto fare la siesta nell'oasi di Figuig senza trovarsi perciò stesso in Africa? Non c'è niente che, più dell'immaginazione e della fede, possa differenziare dagli altri certi oggetti, certi esseri e creare un'atmosfera. Ahimè, quei luoghi pittoreschi, quegli accidenti di natura, quelle curiosità locali, quelle opere d'arte del Faubourg Saint-Germain, di sicuro non mi sarebbe stato mai concesso da girarmi fra loro, e mi limitavo a trasalire, avvistando dall'alto mare, e senza speranza d'approdarvi mai, come un minareto isolato, come un primo palmizio, come l'avamposto dell'industriosità o della vegetazione esotiche, lo zerbino della riva consunto dall'uso. Ma se il palazzo Guermantes cominciava, per me, dalla porta del suo vestibolo, ben più estese dovevano essere le sue dipendenze a giudizio del duca, il quale, considerando tutti gli inquilini alla stregua di fattori, villici, acquirenti di beni feudali, la cui opinione non ha nessun valore, si faceva la barba ogni mattina alla finestra in camicia da notte, scendeva in cortile, a seconda che avesse più o meno caldo, in maniche di camicia, in pigiama, in certe giacche scozzesi dai colori inconsueti e dal lungo pelo, in certi cappottini chiari più corti delle giacche, preceduto da uno staffiere che faceva trottare a mano qualche cavallo acquistato di recente. Più di una volta, anzi, il cavallo distrusse la vetrina di Jupien, che chiedendone un indennizzo suscitò l'indignazione del duca. «Non fosse che per tutto il bene che la duchessa fa nel casamento e nella parrocchia», diceva il signor di Guermantes, «è un'infamia che quel tizio avanzi simili pretese». Ma Jupien aveva tenuto duro, a quanto pare ignorando del tutto quale bene avesse mai fatto la duchessa. Eppure ne faceva. Ma poiché non è possibile farne a tutti, il ricordo di aver beneficiato qualcuno è motivo sufficiente per astenersene nei confronti d'un altro, scontentandolo così ancor di più. D'altronde, anche per aspetti diversi da quello della beneficenza, l'intero quartiere appariva al duca, per vaste estensioni tutto intorno, un semplice prolungamento del suo cortile, una pista più lunga per i suoi cavalli. Dopo aver osservato come un nuovo cavallo trottasse da solo, ordinava che lo attaccassero e gli facessero percorrere tutte le vie del circondario con lo staffiere che correva a fianco della carrozza tenendo le briglie e passava e ripassava davanti al duca immobile sul marciapiede, dritto, gigantesco, enorme, vestito di chiaro, col sigaro in bocca, la testa eretta, il monocolo scrutatore, finché non saltava egli stesso a cassetta, provava a sua volta il cavallo e se ne andava, col nuovo equipaggio, a raggiungere l'amante ai Champs-Élysées. Il signor di Guermantes salutava, nel cortile, due coppie che appartenevano più o meno al suo mondo, due suoi cugini, marito e moglie, i quali, come le coppie di operai, non erano mai a casa a occuparsi dei figli, giacché ogni mattina lei andava alla scuola a imparare il contrappunto e la fuga, e lui nel suo atelier a fare sculture in legno e in cuoio a sbalzo, e il barone e la baronessa di Norpois, sempre vestiti di nero, lei da noleggiatrice di seggiole e lui da beccamorto, che uscivano più volte al giorno per recarsi in chiesa. Erano costoro nipoti dell'ex ambasciatore che noi conoscevamo e che mio padre aveva per l'appunto incontrato ai piedi della scala, ma senza capire da dove venisse, convinto com'era che un personaggio così ragguardevole, che aveva intrattenuto rapporti con i più eminenti uomini d'Europa e probabilmente non dava alcun peso a vane distinzioni aristocratiche, non dovesse frequentare quasi per nulla quei nobili oscuri, clericali e di vedute ristrette. Abitavano lì da poco. Jupien, venuto in cortile a dire qualcosa al barone che stava salutando il signor di Guermantes, lo chiamò, poiché non sapeva esattamente il suo nome, signor Norpois. Signor Norpois! Ah, davvero ben trovato! Pazienza, fra non molto quell'individuo vi chiamerà cittadino Norpois, esclamò, rivolto al barone, il signor di Guermantes. Finalmente poteva sfogare il proprio malumore contro Jupien, che lo chiamava signore anziché signor duca. Un giorno, occorrendogli un chiarimento che aveva attinenza con la professione di mio padre, il signor di Guermantes si era presentato di persona con molta buona grazia. Da allora gli era capitato spesso di chiedergli qualche piacere da vicino a vicino. E come vedeva che mio padre, tutto assorto in qualche pensiero di lavoro e desideroso di eludere ogni incontro, si accingeva a scendere le scale, il duca si staccava dai suoi palafrenieri per fargli s'incontro nel cortile e, col servilismo ereditato dagli antichi camerieri del re, gli aggiustava il collo del soprabito, gli afferrava la mano trattenendola nella sua, accarezzandola persino, per testimoniargli, con impudicizia da cortigiana, che non gli lesinava il contatto della sua carne preziosa, e lo portava come al guinzaglio, con gran fastidio di mio padre, che pensava solo a svignarsela, sin oltre il portone. Un giorno, incrociandoci mentre usciva in carrozza con sua moglie, ci aveva fatto grandi saluti. Probabilmente le aveva detto il mio nome, ma che speranza c'era che lei se ne fosse ricordata e così del mio volto? E poi Che scialba raccomandazione esserle indicato semplicemente come uno dei suoi inquilini. Una raccomandazione assai migliore sarebbe stata incontrare la duchessa in casa di Madame de Villeparisis, che per l'appunto mi aveva invitato, tramite la nonna, a farle visita, e conoscendo la mia intenzione di darmi alla letteratura, aveva aggiunto che da lei avrei potuto incontrare qualche scrittore. Ma mio padre trovava che io fossi ancora troppo giovane per andare in società, e poiché il mio stato di salute continuava a impensierirlo, preferiva evitarmi inutili occasioni di nuove sortite.